Maria, braghe larghe, fasce tra i capelli rossi, uno scialle sulle spalle e lacrime negli occhi. Lei si vorrebbe andare a cercare la sua America, andarlo a raccontare alla sua amica isterica. Del nulla, sarà nel nulla che ritorno, che dentro la sua culla un mucchio d'osso e qualche corvo. Chissà che scarpe avrò, se ci saranno nuvole quando lo rivedrò. La neve sulle tegole, se si ghiacciasse il mare, andremo a piedi in Tunisia a bere un tè alla menta sopra una funivia. Nel deserto, un brivido nel cuore, sul suo cuore aperto, stava cercando l'acqua, con la sua bicicletta, ha perso la sua vacca, dentro una vaschetta. Se si ghiacciasse il mare, andremo a piedi in Tunisia, a bere un tè alla menta, sopra una funivia. Se ghiacciasse il mare andremmo a piedi in Tunisia a bere un tè alla menta sopra una funivia.